sono sempre cattiva a regolazione, qui lui le dà troppo bene, non lo so. A te dimmi se ti facevano la stessa cosa. Sì, lo so, perché l'avevo fatto lo stesso lavoro su delle pepitie da quella la grande. Io quando ho attaccato la cruciale andavo a fonte quella filarmonica, hai capito? E le avevo fatto le casse FPT, le HF42, non mi ricordo adesso la sigla, che ce l'ho in garage, poi capitate mano sua, capito? Siccome quando lui fa la sola, i coni che non sono io, ci mette le mani, mi reggenti, mi tendo di questo o dell'altro, in modo che non ci sono più c'erano i casini con la verificazione. E niente, di comunque sì, ci ho pensato anche io a farlo, perché io ho un, come si chiama lì, di quelle casse, proprio c'era la lampadina, poi non so se lui l'ha eliminata, era una lampadina, hai capito, che era sul crossover e a pisello, confermi? Prima in origine lampadina non le avevano in origine, vero lì? Io non le ho mai viste, le ho smontate, non le ho mai viste queste lampadine, dici tu. Ma tu c'hai le Samsung di B500? Okay, ma queste non sono in legno, mini. Queste sono fatte, come si chiama, in un materiale antiurto, una plastica antiurto. No, la mia c'ha, diciamo, il buffer, poi sopra c'ha la tromba. Ma ti stavo dicendo, mi confermi che le tue si possono, c'ha tre regolazioni da fuori, il volume, i bassi e diciamo i medio alti. Confermi che c'è il volume fuori, si può accendere anche un microfono. No, le mie c'hanno due regolazioni dei bassi e dei diciamo, degli alti, perché degli acuti, hai capito? E quindi sono diverse, no, però è quella cosa lì me l'ha messa, diciamo, sotto mano, no, basta vedere anche come si chiama, un fusibile di una certa area, e parte prima il fusibile, li faccio come si chiama, un foro fuori, hai capito? Li faccio un foro, ci metto un fusibile tipo quello che c'è per anche un focai, quando parte il fusibile, quindi durante la serata io apro e glielo cambio, hai capito? Me li porto appresso, però non si può ogni volta andare, perché anche i pezzi non si trovano, hai capito? Io ho i cosi suoi della Samsung, che ne so, che ce li ho smontati, sto usando dei differenziali, facciamo la stessa cosa, però adesso io la risolvo con un fusibile. Lo so, vengono nell'FPT e così, e così c'è quella lampadina, infatti, e adesso vedo cosa fare. Intanto quando capito a Sassari ci passo da questo signore che altra volta mi ha buscato le membrane e le ho portato solo le trombe, me le ha cambiate, e capito, però bisogna vedere se lui mi assicura che facendo questo lavoro qui io le porto le case per non stare dicendo che poi ci metto mano io, che me lo so fare tranquillamente, così le fa una volta per tutte e andiamo tranquilli, perché la serata lui dietro quel fenomeno nuovo, quando sta suonando, lui le suona per suonare, non le mette quello dischino, quello suona per